Ma Cribbio, oh! Nei denti. Ci siamo tutti. Ci siamo tutti. Cribbio. Stasera tanta roba, eh. Sì, sì, oggi. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo al solito dalla Galleria San Lorenzo in centro storico a Montevarchi, ringraziando come sempre il nostro Stefano Neri, sempre presente nei nostri cuori, che ci concede questo splendido spazio. Fumino, questa sera siamo onoratissimi dell'ospite che abbiamo di fronte, giusto? Almeno dal mio punto di vista sì, è molto, è un ospite particolare, un ospite che rappresenta molto la montevarchinità dal mio punto di vista, che alla fine è quello che noi cerchiamo con il nostro volo insieme all'Aquila. Non dimentichiamoci del regista di stasera, che è Giuliano Ferrara. L'ospite di stasera, come dicevo, è un ospite che a 360 gradi praticamente ha ricoperto e ha vissuto il mondo legato a Montevarchi e alla squadra di calcio, perché è stato un calciatore, è stato ed è un tifoso e adesso in questo momento è addirittura il presidente della società. Quindi ho già svelato il mistero, l'ospite di stasera è Angiolino Livi. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Buonasera Angelo, senti, sei la più alta carica della società al momento, quindi è un onore anche per me, l'avevo già detto in introduzione. Ti faccio subito una domanda, perché io i primi anni venivo alla partita mi ricordo di te come il presidente del Montevarchi Club e oggi, se mi fossi addormentato e mi risvegliassi, ti ritrovo presidente della società. Com'è andata? È veramente una cosa bella, una cosa che vivo quotidianamente a 360 gradi. È una cosa impegnativa, una cosa allo stesso tempo emozionante. Ne sono orgoglioso, sono montevarchino e amo questi colori fin da piccolo e credo che rimarranno sempre con me. Sono presidente grazie a un'intuizione del nostro consiglio direttivo, che ha individuato in me una persona che poteva ricoprire questo ruolo dopo che il presidente che mi ha preceduto, Gerardo Iannelli, ha dovuto uscire, diciamo, dalla presidenza per rimanere nel consiglio per motivi personali. Quindi sarò sempre grato a queste persone che mi hanno dato l'opportunità di vivere una situazione, direi, fantastica per me e anche per tutti i montevarchini che con me hanno seguito il Montevarchi. Credo che ne saranno lieti anche loro e avranno piacere di questo. Chiaro che non si può accontentare tutti, però io credo che la maggior parte debba essere soddisfatta di questo. Ma ti ricordi il momento esatto in cui ti hanno chiamato e ti hanno detto sei te il presidente o perlomeno ti proporremo come presidente? Che emozione hai provato? Beh, io stavo tornando dal lavoro una sera dopo le 10 e mi ha squillato, ho visto 5, 6, 7 chiamate di Ferdinando Neri, mio amico fraterno. Fin da piccoli siamo veramente amici e anche più. Vedo tutte queste chiamate e allora io lo richiamo, dico, che è successo Nando, qualcosa? Perché io ho collaborato, avanti di diventare presidente, ho fatto parte del Montevarchi della rinascita sotto la guida di Casucci, direttore sportivo, che assieme a Ferdinando hanno voluto che io potessi adoperarmi per il Montevarchi e io mi adoperavo facendo tutto quello che c'era da fare, seguendo le squadre, seguendo i giocatori, facendo quello che era, mi era più congeniale. Vedo questa chiamata, lo richiamo, mi dice Nando, cioè, sai, bisognerebbe che ti parlassi, ma quando? Ora? Ora no, guarda che io gli dissi ora devo andare a casa. Ma ho detto, beh, te l'anticipo, domattina fatti trovare presto. Allora, guarda, bisognerebbe che facessi il presidente, dai, gli dissi, guarda, sono stanco, morto, e ho bisogno solo una bella doccia e me ne vado a letto. Lui invece mi ha detto, troviamoci presto, per noi presto significa molto presto. Ci siamo trovati presto e io ho ribadito un po' il mio essere scettico in questo, perché mi investiva di una carica bellissima, ma allo stesso tempo impegnativa, a livelli quasi impensabili per una persona che vive in maniera semplice come me. del mio lavoro, vivo della mia famiglia, di mia moglie, di mia figlia, quindi sono una persona normalissima. Ma Ferdinando, io a Ferdinando di no non ho saputo dire di no, ma ho visto che lui era più contento di me, beh, vediamo dove si va a finire. Intanto siamo andati, al momento siamo finiti molto bene, perché abbiamo vinto 2-3 campionati, una coppa, abbiamo un settore giovanile molto florido, il settore femminile che ci ha portato un altro campionato. Allora, visto che tutti fanno il palmarès, e nel mio palmarès comincia a essere molto solido, e mi auguro di poterlo incrementare, però sempre con calma e con la massima umiltà, facendo un elastico ideale, quel famoso elastico che te da calciatore prima e poi magari da frequentatore dei campi sportivi hai visto fare tante volte e hai fatto tante volte durante gli allenamenti. Julian è partito dalla fine della storia e io ti chiedo di ripartire dall'inizio della storia, ovvero da quando tu bambino vestisti i colori della società rossoblù all'epoca per andare in quella che era la scuola calcio, suppongo. A quei tempi, come era Montevarchi, come te la ricordi la Montevarchi di quando tu eri un bambino, e magari poi anche mettendola in correlazione con quello che vivono oggi i bambini che si approcciano al calcio a Montevarchi? Beh, io ho iniziato molto presto a giocare a pallone come tutti i bambini. Quando ero proprio piccolino si giocava per la strada, si giocava in Piazza della Repubblica, si andava a giocare all'Arno, giocavamo alla palestra della gioventù, la GIL. E lì ci siamo rivolti un po' tutti per iniziare a dare i primi calci. A fare quella scuola io ho trovato degli autentici maestri, persone che mi hanno voluto bene, persone che mi hanno insegnato tante piccole cose che poi ho ritrovato. Persone che mi dicevano di mantenere la calma, e io allora probabilmente non ero in grado di farlo, ma che in seguito a questo momento ho proprio apprezzato. I fratelli Babacci, Mario Semoli, figure storiche del calcio del Montevarchi, ma anche, non voglio dimenticare neanche Luigi Dotti, il buon Gigi, che tanto apprezzava il mio essere ragazzo e mi sgridava e mi riprendeva. E non dimenticherei neanche Franco Marchetti, nella maniera più assoluta. Babbo di Alberto, una gloria calcistica di Montevarchi. Queste persone erano il mio mondo, sono il mio mondo, e ora il mio mondo se n'è andato con loro. Io spero che loro in questo momento possano essere contenti del loro allievo, ma contenti anche di quelli della mia generazione, che sono rimasti attaccati a questi colori, attaccati a queste maglie. Io ho degli amici fraterni, amici ai quali mi rivolgo in momenti importanti. Io ho un amico con cui ho diviso momenti della vita incancellabili, Riccardo Rossi, che ben conoscete. Siamo stati insieme a Torino, siamo rimasti amici tuttora come quando eravamo bambini, e questo è bellissimo. Insieme a lui voglio citare Capasciutti Marco, ma tutte figure che voi tutti sapete che appartengono al Montevarchi, e a Montevarchi, perché sono tesori ineguagliabili di amicizia e di buonsenso. Tutti ragazzi che meritavano di giocare, Romagnoli, tutte persone in grado di fare per bene a Montevarchi, solamente che allora non c'era il culto, non c'era l'idea di coltivare il settore giovanile. C'era un grande settore giovanile che ha partorito signor giocatori. Io mi ricordo di Donnini Patrizio, io mi ricordo di Enzo Ciofi, prematuramente scomparso, mi ricordo di giocatori veramente forti che però o per una maniera o per un'altra non hanno mai potuto liberare il proprio estro per la maglia del Montevarchi. Allora io ero piccolo, ma avevamo dei modelli da seguire e avevamo davanti a noi la squadra che poi fece lo spareggio a Firenze con la Pistoiese, quindi Bencini, Scarpa, Negrisolo, Giovannardi, Rasi, tutti, io me li ricordo benissimo, anche se è passato tanto tempo. Quelli sono personaggi che ci hanno un po' instradato in questo modo di vivere. Però al momento attuale il settore giovanile è nettamente più seguito. Ci sono gli istruttori ben messi al loro posto. Noi abbiamo molti istruttori che settimanalmente, mensilmente al massimo fanno dei corsi di aggiornamento. Quando ero ragazzo io, queste persone che prima ho nominato e che avevano un cuore grande come una capanna e sopperivano con la volontà e con il buon senso alle difficoltà dell'insegnare, avevano degli ottimi fondamentali. Però adesso ci sono degli istruttori, il mondo è cambiato ed è giusto va avanti, ed è giusto, è inevitabile, non si può fermare. Adesso gli istruttori sono ragazzi educatissimi, persone che hanno studiato, persone che si sanno mettere con i bambini e capire le loro problematiche, ragazzi che sanno usare il bastone e la carota e quindi fanno la fortuna della società, in questo caso del Montevarchi, ma tutte le società si sono dovute modernizzare, i tempi sono cambiati. Pertanto io vorrei che i nostri istruttori avessero anche loro, oltre a tutta la loro capacità, avessero anche un gran cuore, perché per stare con i giovani ci vuole tanta ma tanta pazienza, educazione, diplomazia e un gran cuore. Ora il mondo è totalmente cambiato, perché ai miei tempi io mi ricordo che mio padre e mia madre neanche mi hanno mai visto neanche tirare una pedata a un pallone. Io ero a Torino e loro venivano a vedermi e mi aspettavano in pensione. Adesso c'è da confrontarsi spesso, quasi tutti i giorni vedo che si confrontano i responsabili del settore giovanile nostro con i genitori. Vorrei ricordare ai genitori che la cosa più bella di un ragazzo è lasciarlo libero, controllarlo, seguirlo, ma lasciarlo libero. Se gioca, gioca, se non gioca, non gioca. Io ho conosciuto dei giocatori che hanno fatto le trafile alle giovanili del Torino, agli Evi, Beretti, Primavera, senza giocare mai, e poi sono andato a finire in Serie B, e gente che ha giocato sempre ha smesso. Questo fa parte del gioco del calcio. Uno matura prima, uno matura dopo, uno è pronto prima, uno è pronto dopo. Vorrei che capissero questo, che ci fosse buon senso da parte dei genitori nei confronti degli istruttori, degli allenatori e degli istruttori nei confronti degli allenatori, dei ragazzi, innanzitutto dei genitori. E visto che l'hai già citato alcune volte, ti faccio una domanda che riguarda la tua esperienza a Torino. Quando eri un ragazzo, tu probabilmente avevi seguito molto bene gli insegnamenti degli istruttori di allora, tant'è che fosti chiamato dal Torino. Bene, cosa ti ricordi di quella chiamata? Che tipo di emozione ti ha suscitato andare in una grande città, ex capitale d'Italia, a giocare partito da Montevarchi, e che tipo di differenze hai trovato e quanto il tuo essere montevarchino ti ha aiutato nello stare a Torino? Bene, io ho iniziato questa avventura con Riccardo Rossi, l'abbiamo iniziata insieme. Chiaramente lui, essendo 2 anni più giovane di me, faceva una categoria diversa dalla mia. Sono subito entrato negli allievi nazionali del Torino e lì ho conosciuto persone con i quali tuttora mi sento, non dico quotidianamente, ma perlomeno mensilmente e al massimo per le feste ricordate. Parlo di Rossena, parlo dei Cantarutti, parlo di Masi, allenatore della Pianese attuale, parlo di Sinopoli, di Genero, di Marchisio, per rendervi personaggi con i che siamo divisi il panino, siamo andati a dormire insieme, abbiamo fatto le prime esperienze fuori di casa insieme. Era un bel vivere, si viveva bene. Erano anni un po' pesanti, c'era a Torino c'era l'impegno politico, quindi, però noi eravamo un po' fuori da tutto questo, vivevamo in centro e poi prendevamo il pullman e andavo a Filadelfia. Filadelfia è una cosa che mette i brividi, chi avveste quella maglia credo che se la possa portare addosso veramente, ed è successo anche a me, ma quel campo è qualcosa di particolare, quelle sono veramente cose che ti toccano il cuore e che ti segnano, e per questo io non dimentico mai quell'esperienza. Ma il mio essere montevarchino mi ha facilitato perché tutti hanno conosciuto Montevarchi, hanno conosciuto la nostra squadra, perché io facevo una gran pubblicità al Montevarchi e seguivo settimanalmente sul giornale, e allora non c'erano internet oppure le radio libere, non c'era niente. Ci si sentiva per telefono con il babbo e con la mamma una volta, due la settimana e via. Tenendo conto che io allora avevo 14 anni, 16 anni, quindi eravamo bambini. Poi si parla di 45 anni fa, quindi pensa che il mondo mandalo indietro. Ora per andare a Torino ci vuole un'ora e venti, allora io ci si metteva 6 ore e mezzo se non c'era ritardo. Se ci trovava in ritardo si andava oltre. Però Montevarchi, tutti sanno del Montevarchi. Tutti quando mi richiamo mi domandano subito cosa fa il Montevarchi. Ultimamente ho detto, sai cosa faccio io però? Quindi, e questo ha fatto piacere a tanti. Questo è molto bello. È stata una grande esperienza, un'esperienza di vita che sinceramente mi ha segnato. Però mi ha segnato in maniera positiva. Non c'era rammarico, potevo senz'altro fare di più. Avevo i mezzi per poter fare di più. E lo dico senza presunzione, non sono presuntuoso. Chi mi conosce sa che è la verità, è la pura verità, limpida. Non voglio dire se allo stato attuale avrei fatto o avrei detto, io parlo di allora. Allora ho incontrato davanti a me giocatori che poi addirittura sono diventati campioni del mondo. Quindi un motivo per rimanere un po' indietro c'è, è chiaro. Il Torino aveva allora probabilmente quegli anni lì, gli anni 70 e a cavallo degli anni 80, probabilmente il più forte vivaio esistente al mondo. Poi il Toro dopo di noi ha vinto 6 volte Viareggio, quindi ha sfornato caterve di giocatori. Torino è dappertutto, il vivaio Granata è qualcosa di particolare. Potevo fare di più, non l'ho fatto, non avevo... Era un po' un giovanotto un po' bizzarro, un po' estroso, un po' troppo impulsivo. E se mi guardo ora, probabilmente non mi riconosco. Però, piano piano, anch'io comincio ad avere qualche anno, ma mi ricordo ancora dei lividi dall'allora. E prospettivamente ho fatto qualche errore e ho pagato a caro prezzo, ma non c'è alcun rammarico. L'importante è che quando alzo la cornetta del telefono e chiamo, mi viene risposto e sono ricordato per una persona seria. È questo che mi piace, una persona seria, sorridente, allegra. E poi niente, si parla di calcio con queste persone. E come va la vita? Ora si parla di figlioli, qualcuno c'ha già nipoti, qualcuno è nonno, niente, è la vita che corre. Però mi fa tanto piacere quando sento questi ragazzi, mi fa tanto ma tanto piacere, perché sento che è la pura anche da parte loro. E li ho invitati a vedere il Montevarchi per un motivo o per un altro. Qualcuno è venuto, un amico, lo scorso anno a vedere il Montevarchi Foiano, avevamo vinto 2-1 con gol di Bartolozzi alla fine. È stato con me. Ho invitato anche quelli più famosi, quelli che conoscete anche voi. Mi hanno promesso che vengono. Ma io ho fiducia. L'importante è rimanere presidente e vedere se succede. E dopo che la tua esperienza a Torino si è conclusa, poi com'è andata avanti la tua carriera di calciatore? Sei tornato qua? Ho avuto questa situazione a Torino. Dopo un certo momento io sono voluto tornare. Mi sono lasciato vincere un po', ma nemmeno dalla nostalgia. Volevo Montevarchi, e sono venuto a Montevarchi. A Montevarchi ho fatto parte della squadra della rosa della Serie C con Castelletti, con Vinicio Brilli, Attilio Sorbi, questi ragazzi qui. Ho messo insieme una sola presenza e a fine anno ho avuto una richiesta da Rosignano. Sono andato là, ma là ero solo e probabilmente a quel punto lì avevo già le pile scariche, quindi ho preferito fare ritorno a casa e praticamente chiudere la mia avventura calcistica. Troppo presto, sicuramente se fossi stato fermato al momento giusto probabilmente avrei scritto qualche pagina importante anch'io, però non l'ho fatto. E ripeto ancora, a scanso di equivoci, che non c'è nessun rammarico. Io sono tornato a casa e mio padre e mia madre non mi hanno fatto mai pesare questa mia decisione. Magari non l'hanno condivisa, però non me l'hanno fatta mai pesare. Sono sempre stati con me. Il conforto di mio padre e mia madre, che adesso non ci sono più, mi ha reso più forte. E ora che non ci sono più, apprezzo ancora di più quel loro gesto. Ha fatto sì che potessi maturare, anch'io formare la mia famiglia, avere una figlia e vivere nella maniera più semplice e tranquilla possibile. Facciamo un salto adesso negli anni 90 e riferendomi agli anni 90 intendo il periodo in cui nacque il Montevarchi Club. Avendo intervistato nelle puntate precedenti anche esponenti del tifo organizzato della curva Vasco Farolfi o anche altri tipi di tifosi, ci veniva raccontato spesso che comunque chi creava un gruppo, come poteva essere quelli presenti appunto in curva, aveva un bar di riferimento, si ritrovavano tutti nello stesso posto e poi nasceva il gruppo, la voglia di andare in trasferta e di lì piano piano anche le cose ufficiali. È stato così anche per il Montevarchi Club? Anche tu facevi parte di un gruppo di amici in un bar e poi allo stadio, oppure è stato diverso? Sì, è stato così, però vorrei farti un piccolo preambolo, se mi è permesso. Io ho fatto parte, quando ero a Torino, e qui a Montevarchi è stato creato l'Ultras Club da Cassini Stefano, il famoso Baco, Ferdinando Neri, Mario Picchioni e tanti altri ragazzi. Eravamo tutti all'MCL allora di Montevarchi. Lì è stato formato il primo Ultras Club di Montevarchi con tanto di giornalino. Io avevo la tessera, me la facevo spedire e venivo qui. E poi nel proseguo degli anni abbiamo questo grande gruppo, poi pian piano si è sciolto, rimanendo sempre amici ma prendendo ognuno la propria strada, il lavoro, la vita, la famiglia, le disgrazie purtroppo per qualcuno ci ha lasciato in maniera prematura. Allora abbiamo iniziato a frequentare altri bar al luogo di ritrovo e allora ci siamo trovati al bar 900 di Luciano Scolari, allora lo gestiva Luciano Scolari, attualmente è gestito dalla signora Laura. È un suo ben da fare, mi dicono che lunedì è sempre un'atmosfera un po' accaldata, come era allora quando c'ero io, del resto. Io non vado solamente non perché faccio il presidente, non vado perché c'è l'orario di lavoro, sennò al bar ci sono sempre andato e non ci vedo niente di male. È chiaro che in un bar se ci vai lunedì il presidente magari ti prende, però sono una persona tranquilla e accetto qualsiasi cosa. Allora lì ci siamo ritrovati e ci sono stati una sera del partito iniziativa, cioè domani si fa le votazioni e si fa un club. E c'erano diversi personaggi, fra cui Massimo Mariani, chi ben conosci, la Roberta Soldani, c'era Dino Fabbrini, c'era Lorenzo Piovosi e tanti altri personaggi che vediamo quotidianamente allo stadio. Anche ieri a Cesena io l'ho visto, non c'era alcun problema. E si fece una votazione e uscì solo un nome, abbiamo già deciso. Allora va bene, quello non è una cosa grave. Allora poi abbiamo iniziato a organizzare pullman, a organizzare trasferte, accorpavamo la trasferta con una mangiata al ristorante ogni tanto e quindi è stato molto bello. Abbiamo fatto 5-6 anni di trasferte insieme agli Ultras, loro chiaramente con la loro carovana, noi con la nostra, però sempre d'amore e d'accordo, perché quei ragazzi della curva ci siamo sempre stati i nostri allenatori. È chiaro che noi avevamo qualche esponente nostro che aveva 85 anni, che adesso non c'è più, non gli si poteva chiedere di cantare a squarciagola, però magari loro avrebbero voluto anche questo, però hanno capito che il nostro apporto era quello e noi davamo sempre quello, ma però siamo sempre andati e abbiamo fatto tante trasferte e lì abbiamo tanti ricordi e tanti aneddoti da buttarsi in terra. Mariani, la Soldani, instancabili, persone instancabili. Ci hanno dato la Gianna Giuntini, sempre presente anche al momento attuale nel Montevarchi, una famiglia veramente da ringraziare. E lì abbiamo fatto questo. Però poi a un certo momento è subentrato un po', sta come gli sportivi, si va un po' con i risultati, no? E allora, fino a che si faceva la C1, la C2, tutto bene, siamo andati, poi è iniziato il periodo buio che tutti conosciamo, e lì si sono sciolte un po' le righe, non solo del Montevarchi Club, ma anche della tifoseria organizzata, i ragazzi che non hanno mai mollato, nemmeno allora, però anche loro li vidi chiaramente un po' in difficoltà, quantomeno in difficoltà, perché poi noi tifosi dovevamo prendere una direzione, quindi o schierarsi con una situazione del genere o schierarsi fuori, e abbiamo tutti, pur frequentando lo stadio, ci siamo schierati fuori, vorrei dire, magari senza un seguito organizzato come era fino allora. E che lì siamo stati anche vicini anche a questi ragazzi. È chiaro che il merito maggiore di non aver mai mollato, ma ragazzi della curva che veramente sono bravissimi, e vedo spesso, diciamo, il comandante, lo vedo spesso, lo sento, lo vedo perché mia moglie mi porta a prendere la carne da lui spesso e volentieri. Fino a che ci sarà una persona del genere, il tifo a Montevarchi non mancherà mai l'apporto per l'acqua. Ci saranno anche le contestazioni, giuste, ingiuste, non voglio sapere, ma ci devono essere, le critiche ci devono essere, perché l'importante è che si parli, perché se ben ti ricordi, vi ricordate, in quei momenti lì non si parlava più del Montevarchi, ed è la cosa più brutta, perché l'indifferenza è la peggior cosa. Invece se si parla, dice, a me questo non mi piace, mi piace più l'altro, e no, e si va avanti, e si crea interesse. La domenica si va a vedere se è bravo, lo decide. Dice, io sì, a Montevarchi. E così è. Comunque io credo che siano ragazzi bravi, non hanno mollato mai, ma nemmeno i nostri. Nel Montevarchi Club 98, a dire il vero, esiste ancora. Io ne ho la presidenza. Conflitto di interessi, tecnicamente. Abbiamo Matteo, il barbiere, che lui registra tutte le cose. E ancora ho nel baule di casa di mio padre e mia madre lo striscione e della tribuna Oxford, quello originale. Perché la tribuna Oxford è una creatura nostra, una creatura di quelli della mia generazione. E mi fa molto piacere averla rivista bella piena, e tuttora anche con tanta gente. Io mi ricordo qualche volta ci siamo stati in 3 o 4, e invece adesso che la cosa ha ripreso un po' corpo e deve assestarsi ancora di più, io credo che Montevarchi risponderà come sempre ha risposto. Io mi ricordo bene l'epoca di cui parlavi te, perché io quando facevo le scuole superiori facevo sempre colazione al Bar 900 la mattina, quindi vedevo spesso il Montevarchi Club e discuteva o si organizzava, tant'è che io penso la prima sciarpa che mi è stata regalata, mi fu regalata quella di Montevarchi Club, io volevo quella della curva, sicché me la sono messa poi volte, ti dico la verità. Però comunque, a parte questo, mi ricordo bene, erano primi anni e io frequentavo lo stadio. In ogni modo ti volevo chiedere un'altra cosa, perché comunque sei stato parte attiva del tifo e quindi hai vissuto il tifo e la passione per la squadra dagli spalti. Adesso che sei presidente, due domande: come fai a essere istituzionalmente corretto pur avendo nell'animo inevitabilmente l'animo del tifoso? E seconda domanda, che poi è strettamente collegata: quanto vedi importante adesso l'incitamento della curva e del tifo, quindi organizzato, rispetto alle sorti della squadra in campo? Cioè, lo percepisci in modo diverso ora che comunque sei parte attiva nel percorso della squadra, diciamo? Vorrei partire dalla seconda. Lo percepisco nella maniera che deve essere percepito. Seguo l'andamento della partita e sento che i ragazzi della curva incitano sempre e comunque. Ci sono dei momenti nei quali magari qualcuno si fa sentire la voce un po' fuori dal coro, però credo che sia legittimo che ognuno possa dire e fare quel che vuole. Credo che la cosa importante sia non offendere, perché sono ragazzi giovani e sentono molto questa piazza. Questa è una piazza importante, parliamoci chiaro. A livello di Serie D è una piazza importantissima e ne abbiamo avuto una riprova ieri. Ieri ci hanno ospitato al Mannuzzi, hanno voluto giocare al Mannuzzi perché la tifoseria del Montevarchi merita il Mannuzzi. Queste sono le parole del presidente Martini di Romagna 100, con il quale e mi sono sentito, direi, quotidianamente per almeno 15 giorni per organizzare questa partita che lui voleva fare con noi, perché erano rimasti tutti colpiti dalla tifoseria del Montevarchi. Questo fa onore. Io ho piacere che i montevarchini siano venuti ieri al Manuzzi, perché hanno respirato nuovamente un'aria che gli appartiene. Ho piacere che i ragazzi della curva abbiano preso posto in curva, perché se lo meritano. Perché chi ha seguito il Montevarchi in campetti di periferia meritava questa cosa, per mio conto, per il mio modo di essere presidente. Perché essere tifoso del Montevarchi significa anche essere una persona che è passata veramente sotto le fuori dei Caudini. Abbiamo subito delle umiliazioni notevoli. Qualcuno che gioca in categorie un po' inferiori qui nel vicinato ci voleva insegnare come dire, come fare. Ma con il silenzio, con la buona volontà, con il tifo, con la nostra presenza costante, con la presenza vostra, di voi sportivi, di voi tifosi, abbiamo messo a tacere tutto e tutti. E siamo ritornati in una categoria consona alle nostre tradizioni, che mi auguro sappiamo mantenere, nella quale dovremo cercare di fare crescere il nostro club. Parlo della società a livello di strutture, per i nostri giovani, perché è la cosa più importante, a livello di organizzazione. Dobbiamo veramente mettere una marcia che ci permetta di andare avanti, che permetta di andare avanti anche a coloro che ci sostituiranno, perché sarà inevitabile la cosa, tramandare a tutti la fede per questa madre. Come posso essere adesso, come vivo la cosa ora che sono presidente? Beh, essere presidente mi ha cambiato un po' la vita, mi ha cambiato il modo di gestire un po' le cose. Per esempio, mi accorgo di usare molta diplomazia. Magari a qualcuno può sembrare che questo dice sempre le solite cose, ma non sono le solite cose. Non posso mai calcare la mano, o quantomeno dire apertamente i sentimenti che provo. Però fra le righe, se uno ci legge, ci regge. Mi ha cambiato un po' la vita, perché essere presidente di Montevarchi significa essere presidente per 24 ore su 24. Io sono presidente la mattina del sabato, che vado con mia moglie a prendere un caffè, se vado con lei a fare la spesa sono il presidente, se vado a prendere un caffè da Cloio sono il presidente, mi fermo da Matteo a staccarmi le basette sono il presidente. Questo è essere presidente a Montevarchi, è molto impegnativo e mi ha cambiato, sì, però sono la solita persona, tranquilla e leale. È chiaro che mi comporto in maniera corretta, onde evitare parole o... Guarda che esempio ha dato, io cerco sempre di essere moderato, di essere... E anche nei giudizi sulla squadra, sugli avversari, dico quello che è. Quindi io vorrei che gli sportivi montevarchini, quando mi sentono dire che abbiamo avuto un'accoglienza bella e una società seria che ci ha ospitato bene, non è la frase di circostanza, è la verità. Ieri abbiamo avuto un grande riconoscimento. Ieri abbiamo visto che noi abbiamo recuperato un grande credito. Adesso abbiamo credito. Abbiamo credito verso la federazione. Abbiamo credito con gli avversari. Adesso siamo in Montevarchi. Fino a qualche anno fa, in categorie magari un po' inferiori, abbiamo pagato dazio. Tutto quello che abbiamo subito e è stato combinato nei nostri danni, l'abbiamo pagato noi. Gli sportivi in primis, la società. La società si è sempre impegnata, ha dovuto passare anche lei dei momenti di difficoltà, perché qualcuno magari per venire a Montevarchi ha preteso questo, quella cosa di sicurezza. Noi abbiamo imprenditori locali giovani, intelligenti e lungimiranti, e soprattutto, grazie a Dio, ben messi, con una solidità economica notevole. Ma è chiaro che i soldi non vanno buttati via, no? Mi sembra ovvio, nessuno di noi qui presenti si butta via. Io non posso buttare via niente. Però bisognerà fare un passo secondo la gamba. Adesso ci sono dei giocatori, anche in squadra a Montevarchi, che non si preoccupano minimamente del discorso rimborso. E questa è una grande soddisfazione. personaggi esperti, senza di cui non posso fare il nome, non si preoccupano del rimborso, sanno che non perdono niente. Noi siamo regolarissimi, la società è serissima, puntualissima, e vorremmo che anche gli altri lo fossero con noi, ma qualcuno magari qualche difficoltà, quindi bisogna passare un po' la faccenda del buonsenso e cerchiamo di recuperare tutto. Questo è essere presidente, cercare di bilanciare le cose nella maniera migliore possibile, per quanto riesco a farlo, per quanto posso farlo. In questo ringrazio sempre la vicinanza di Albiz, perché Albiz è un ragazzo che in tanti momenti mi ha dato dei buoni consigli. Ma ringrazio il mio consiglio direttivo, i Neri, Losi con la sua pacatezza, Neri con la sua concretezza, Andrea Romei, imprenditore lungimirante, ragazzo che vede in là, e gli Annelli, chi ne ha più ne metta. E ci sono personaggi importantissimi come Bartolozzi, come Rossi, come Currò, che hanno dato e stanno dando una mano a tutto tondo. Currò ha fatto tutto il percorso dell'Audax, ha gestito l'Audax fino al trapasso, fino al Montevarchi. Sono personaggi ai quali bisogna dire grazie e sperare che non abbandonino mai la posizione che hanno. Abbiamo l'aiuto, l'interesse della famiglia Giuntini, che ci è stata molto vicina. Stiamo cercando di allargare il Montevarchi a nuove entrate, stiamo cercando di lavorare per queste strutture quotidianamente. Questo quotidiano attualmente è questo: le strutture, i giovani, e perché vogliamo portare i giovani in squadra, li vogliamo. Il sogno sarebbe fare una squadra tutta di nostra, ma non è questo, non sarà mai possibile. Però diciamo che su 20, 22 persone, 23 di rosa, si potrebbe veramente portare 13, 14 ragazzi del vivaio. Questo chiaramente il lavoro sul settore giovanile si vede a lunga gittata, ma i risultati del settore giovanile sono sotto gli occhi di tutti. Quindi se si vince dei campionati, un po' di materiale ci sarà. Quindi sarà da far maturare, sarà da vedere quello che ti potrà dare una mano, quello che magari questa categoria è sforzato, e allora sarà un ottimo giocatore d'eccellenza e farà la sua carriera e guadagnerà i suoi soldi. L'obiettivo di Montevarchi è questo. E soprattutto avere ottimi rapporti con tutti, federazione, avversari, nella maniera più assoluta. Essere leali, onesti, accogliere con la massima educazione tutti. Poi vediamo. È chiaro che quando io gli voglio bene, il presidente Martini del Romagna Centro, ma speravo di vincere. Questo fa parte del gioco. Quindi bisogna saperlo accettare. E in quei momenti mi è un po' difficile però conto 2, 3, 4, 5 la dico. E quindi va bene. D'altra parte, quello che è accaduto è un po' quello che ci si augurava ai tempi in cui appunto si reclamava come tifosi Montevarchi e Montevarchini, e c'erano le contestazioni famose negli anni che hai citato anche te, con la lungimiranza, con il rientro dei Montevarchini dentro la società e ponendo le ottime basi soprattutto sul settore giovanile, che come giustamente detto daranno sicuramente dei frutti a lungo termine, e comunque stanno già dimostrando di essere basi solide, ben messe, che quindi non possano altro che far bene in prospettiva. La speranza davvero è quella di poter andare ulteriormente avanti. Ora, ultimamente, per portarti un esempio su quello che ti ho detto, Mi faccio l'esempio della prima squadra in quello che è successo nelle ultime domeniche. Se ben ricordi, Essussi ha subito una squalifica, poi è stato fermo una settimana, è rientrato ed è stato espulso, quindi un'altra squalifica, se non che poi si è fatto male alla schiena, ha avuto un dolore in fondo schiena, piccola contrattura che l'ha fermato 2 o 3 settimane. Allora a quel punto lì, se abbiamo giovani dobbiamo giocare con i giovani, se no quando li fai giocare? Se al posto di esso sì io metto un altro esso sì, il giovane l'anno dopo da Montevarchi bisogna andare dove c'è da andare. Allora io mi rifaccio al discorso di Tomassini, per tagliare la testa al toro. Tomassini è un ragazzo che abbiamo voluto fermamente, è un ragazzo che abbiamo accontentato economicamente. È un ragazzo valido, intelligente, una persona seria, un ragazzo che meriterebbe tanto di più. Ed è anche un ottimo giocatore. Non a caso che chi l'ha seguito come Rosalì è stato a vedere. Rosalì è una persona allenata 40 anni. Se dà un giudizio su un giocatore, potrà sbagliare come tutti, ma vedrai che poi alla lunga. Ma infatti Tomasini qui ha fatto 3 o 4 gol belli, di pregevole fattura, denotando di essere capace a giocare al calcio, ma questo non è colpa del presidente, visto che sono io adesso a parlare, ma il ragazzo giocava poco e come tutti i ragazzi e vogliono giocare. Lui questa annata qui a Montevarchi l'aveva investita per provare a giocare, vediamo un po' se riesca a giocare. È chiaro, quando è arrivato a novembre ha visto che giocava pochissimo e probabilmente intorno a lui non sentiva la fiducia da parte di chi giustamente aveva questa richiesta del Pineto, e noi non possiamo tenere un ragazzo che non ci può stare. Ci stava volentieri, però lui voleva giocare, quindi ha fatto capire che per un lato sì, per l'altro lato no. Quindi non vedo perché Montevarchi debba tenere un giocatore contro voglia. Quando poi lui è andato a Pineto e sta facendo bene. Ma vorrei ricordare che al posto di Tomasin, che tecnicamente parlando è un attaccante centrale come Essussi, con caratteristiche un po' diverse in fatto di movimento, Essussi attacca gli spazi, Essussi è velocissimo, e Tomasin è un po' più statico, però capace tecnicamente di risolvere la partita. Questo è il mio giudizio modesto. Al posto di Tomasini è arrivato Napolano. Napolano è una seconda punta che si sposa benissimo con Essussi, che ha tarpato un po' le ali a Fofi, ma gli permette a Fofi di crescere. Fofi, ragazzo nostro. E Napolano ha già fatto 4 gol con una partita ieri molto positiva, dove poteva andare a Bersaglia, l'ha trovata la traversa. Quindi ha fatto i gol di Tomasini a Pineto. Però vorrei ricordare a tutti che Napolano, preso per giocare in coppia con Essussi, ci ha giocato domenica a Cesena la prima volta, la seconda volta, perché la prima volta ci ha giocato con il Carpanese e abbiamo fatto 4 gol. La seconda volta ieri, in 10 partite ci ha giocato 150 minuti con Essussi. Per il resto ha dovuto giocare con dei giovani e quindi si è dovuto adattare alle difficoltà che i ragazzi hanno trovato, perché indubbiamente un ragazzino del 99, per quanto bravo, volenteroso, caparbio possa essere, nella Serie D presenta difficoltà. Cioè, e questo volevo dire, questo mi premeva dire. Voleva dire questo se volevamo arrivare a questo discorso. Quindi ecco. Mi auguro che Montevarchi capisca che i giovani è l'unica risorsa che ha Montevarchi per potersi permettere di giocare senza alcun problema, fermo restando questa società, sperando che ci siano nuove entrate importanti. Per il resto il pubblico deve cercare di capire che se abbiamo i giovani dobbiamo lavorare con i nostri giovani, cerchiamo di farlo per quanto è possibile. Non è che va a prendere un ragazzo di fuori perché i nostri non sono bravi, è che questo qui magari è già pronto e te hai bisogno di qualcosa di pronto. Yarasoba è un ragazzino che magari fosse nostro, è che il Prato ci ha dato un prestito. Yarasoba probabilmente salirà alla categoria, però chi lo sa, fisicamente non è un gigante, però è un giocatore. Pensa in Della Sopra del 99 e prova a fargli fare la riunione, se che fa Della Sopra adesso? Che fa? Piglia la palla, ne è sempre lui. Quindi è più pronto di altri, tutto lì. Arrivati a questo punto è arrivato anche il tuo momento di raccontarci dei piccoli segreti, perché il volo dell'Aquila svela i misteri. E uno dei misteri che generalmente un calciatore custodisce è quello legato alle scaramanzie che aveva quando giocava o che ha nel caso fosse ancora un calciatore. Quindi, Angelo, quale scaramanzia ti contraddistingueva quando tu eri un calciatore e se ce l'hai pure adesso che sei un presidente? Io quando ero calciatore, e lo sono stato non per tanto tempo, da giovane, ma non ricordanza di aver mai pensato a queste cose. Adesso da presidente neanche, però devo dire che mi trovo spesso e volentieri, quando vanno nella nostra metà campo, a toccare il ferro della macchina. E Albici mi dice, ma che fai? Ma appoggio mi fa. Oronzo Canà aveva il sale e Angiolino tocca ferro. No, e beh, direi... Però io ho molta fiducia... cioè, in queste cose sì, dei momenti proprio perché si cerca di fare il risultato in tutte le maniere, quindi uno si butta a tutto, però tocca ragazzi, dai, io ho molta fiducia nei nostri ragazzi, quindi mi auguro che io tenga le mani tranquillamente in vista, non c'è problema. Bene, Angelo, grazie, grazie infinite di essere intervenuto ai nostri microfoni per questa puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Ringrazio il mio compagno di volo, Julian Carax. Grazie a tutti, grazie a te Fumino, grazie Angelo, grazie anche al nostro regista che una presenza ingombrante ci ha messo in difficoltà, Giuliano Ferrara. No, non è Giuliano Ferrara. Io anch'io vorrei ringraziare il vostro invito. Voglio ringraziare per essere stato qui presente con voi. Mi ha fatto molto piacere. Se ci sarà l'occasione, sarò ben lieto di rispondere ancora di sì, perché è molto piacevole e molto carino. Grazie a te. E comunque, Julian, è ingombrante la presenza del regista, ma non è così ingombrante. Non è Giuliano, è Giuseppe Ferrara. Ma sai, io essendo dietro in regia, io avevo capito Giuliano e non avevo visto. E vabbè, allora lei Giuseppe a posto, ci sembra meglio. Bene, comunque ringraziamo anche il nostro regista, dunque Giuseppe Ferrara, ma a questo punto ringraziamo anche Giuliano Ferrara di esistere. Sempre sia lodato come Stefano Neri. Ringraziamo Stefano Neri che ci mette a disposizione i locali all'interno della Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi e tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Grazie. Auguriamoci che accada per una grande occasione, magari, perché no, per un'altra partita della promozione o per un derby positivo. Che voi possiate, quando verranno, fare un'intervista, sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo, sì. Certo. Ma ci siete su Facebook? No, ma io la vorrei vedere. Porca miseria. C'è la migliore. Ma lo sai, io avevo proprio capito Giuliano e tu lo dicevi, ridevo anche, invece c'era Giuliano, c'era Giuliano. Presidente, ma lo stadio che si fa? Stadio? Si registra più. No.